Lui è uno scrittore di Frascati, ha pubblicato due libri da Bompiani, ha vinto la Volpe d'Oro 2005, mentre con la sinistra regge il passaporto, e vorrà pur dire qualcosa in termini di saper vivere, con la mano destra si sta grattando la fronte all'attaccatura dei capelli. Non è che gli pruda, è gesto di allegra constatazione, di coincidenza favorevolissima, tant'è vero che sorride. Lei è un'insegnante napoletana, tiene entrambi i pollici infilati nelle tasche dei jeans e con ciò esibisce tutta la sua disinvoltura. Sorride. Lui ha un ristorante a Portofino, è anche consigliere provinciale a Genova per Alleanza Nazionale. La destra è in tasca, dico la mano, non sto facendo allusioni politiche, la destra è in tasca e con la sinistra si sta dando una giustatina agli occhiali. Sorride. Lui è un dottore commercialista nel Comasco, ha un nome che sembra il programma di un'eternità confortevole, Christian Paradiso, fa un gesto come se dicesse ma dai, la mano sinistra aperta in avanti, palmo verso l'alto, la destra che stringe l'omero sinistro, sorride. Lei è titolare di un call center, ma non so bene cosa sia, ma deve essere cosa rispettabilissima, a Bolzano, gomito largo, mano sinistra sul fianco, sorride. Lui è un consulente, laureato in ingegneria al Politecnico, ha preferito un posto di vicepresidente di una società che fa ricerche di mercato a Milano. Con la sinistra regge l'agenda bella imbottita e con la destra impugna una penna altrettanto cicciotta all'altezza dello sterno. La penna qui, ecco, aerea com'è, è più il dirigibile di un ceto e di un milieu sociale che non uno strumento di scrittura. Sorride. Siamo a 6, ne mancano altri 5. Lui è uno skipper di Sorrento. Si chiama esattamente come un politico locale morto qualche anno fa, nel 94, un vecchio professore di matematica, sarà un discendente sui quali i genitori hanno investito. Con le mani impugna saldamente una corda da barca con cui ha fatto una specie di cappio, più skipper di così. Sarà perché ha il nome di un altro, non so, sarà perché la professione impone un rigore morale ben scolpito financo nei muscoli dell'espressione, sarà perché gli è sorto un dubbio, sarà perché ha mal di pancia, lui non sorride. Lui fa il broker e infatti sta leggendo l'inserto Affari e Finanza della Repubblica. Lo regge con la sinistra, mentre con la destra si sta aggiustando gli occhiali. Anche lui, la toccatina fa. Il suo sorriso è meno marcato, a bocca chiusa, ma c'è. Lei è un medico di Verbania, direi che si è seduta e che con le mani sta cercando di sistemarsi i jeans che forse strettini nella posizione le danno un po' di fastidio, poco convinta ma sorride. Lei dice che fa l'attrice, ma una ricerchina in internet dice che fa la modella, niente nudo, niente glamour, che non so cosa sia, ma immagino che sia una cosa terribile, e niente intimo, solo ritratti e fashion, che non so cosa sia, ma immagino che sia una cosa meno terribile del glamour. Tuttavia qualche fotografia in mutandine c'è lo stesso. Il braccio destro penzola e la mano sinistra stringe alla vita. Sorride. Era l'ultima. Lo scrittore non è Umberto Eco, l'attrice non è Monica Bellucci, il medico non è Veronesi, il politico non è il vicepresidente del Consiglio, nessuno di costoro rappresenta vertici di notorietà e nessuno di costoro costituisce un'icona di riferimento per le masse popolari. Al più possono dare una mano a qualcuno, ecco, e presumibilmente in qualche circostanza avrebbero bisogno di una mano pure loro. Hanno successo, ecco, hanno successo, sì, ma nel loro ambito, anzi nel loro ambitino, sono abbordabili, ecco, stanno bene, ci mancherebbe, gente da cene fuori una sera sì e una no, vacanze di qua e di là, non lo so, casa di proprietà, casa in montagna, forse anche casa al mare, ma il loro standard di vita non è eccezionale. con un po' di buzzo buono, con una rinuncina in più alla propria autonomia, senza troppi grilli per la testa, con un minimo di sacrificio di sé, insomma, ci si può arrivare. Tutti indossano capini di cashmere che vanno da un costo di 59,90 euro a 159,99 centesimi. Si stanno dando un contegno per la funzione che svolgono. Devono essere fotografati, prototipi decidui per la promozione di comportamenti commerciali, no? Un'offerta di un self-service all'ingrosso valida fino al 26 ottobre prossimo. Ma ne sono anche soddisfatti. Come minimo ci hanno guadagnato un golfino di puro cashmere, nonché la convinzione di corrispondere appieno, fisicamente, mentalmente, culturalmente e politicamente agli stili di vita ratificati dal regime. Sono tutti sulla quarantina, qualcuno quasi, qualcuno più verso i 50, hanno un'età commisurata al potere d'acquisto. Sono le stelle di un firmamento minore, dove vige la poca luce. Non pretendo una notte in cui tutte le vacche siano nere, come diceva Hegel, ma almeno grigie. Una penombra necessaria perché tutti o quasi tutti possano prima ambire e poi meritarsi un capino di cashmere senza poterne indagare a fondo né i processi ideologici in base ai quali ambiscano e meritino, né la qualità. Nella qualità ovviamente non eccelsa del cashmere medesimo in questione. Troppi 9 nei prezzi. 99,90, 189,99, c'è perfino un 129,99. Forme del denaro che neppure sono più in voga per l'acquisto di un bene comune come il pane, sono più utilizzate per un bene che dovrebbe essere di lusso. Troppi 9 nei prezzi tengono questo cashmere e questi suoi testimoni a debita distanza dal cashmere dei quartieri alti, dove i centesimi non sono mai esistiti, e se sono esistiti lo sono stati soltanto per le collezioni fior di conio, dove le unità sono trascurate di principio e dove le decine di euro vengono sistematicamente arrotondate alle centinaia superiori. Il modello evoluzionista vuole che l'animale costretto alle angherie della natura, dalli ridalli, produca da sé le sue difese. È così che le capre degli altipiani della Mongolia, invece di andarsene in Costa Azzurra, hanno risposto ai meno 30 gradi di casa propria ed hanno sviluppato una lana protettiva particolarmente fitta e calda sotto il pelo più lungo. Il modello evoluzionista potrebbe anche volere che l'animale costretto alle angherie della cultura, dagli ridalli, produca da sé le sue difese. È così che alcuni, invece di ribellarsi all'intrinseca follia del mercato, si sono decisi a prestare la propria immagine per indurre propri simili o quasi a desiderare ed a pagare quel che loro, in virtù di quello che potremmo definire come uno spirito di adattamento superiore, quel che loro hanno avuto gratis.